GR Europa. Ci vuole più ambizione per l'agricoltura biologica europea e quindi va riesaminato l'attuale quadro normativo al fine di dare un periodo di stabilità e certezza al settore. L'invito è stato lanciato al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura europea, dal Consiglio agli Stati membri e alla Commissione UE, un settore dove la domanda supera ampiamente l'offerta e su cui punta da anni l'Italia. Per il Consiglio UE, il biologico per crescere ha bisogno di chiarimenti e semplificazioni. Il dibattito sull'Europa, avete sentito poco fa le notizie che arrivano dal Regno Unito. Questa mattina ospiti a 9 in punto, tra loro anche Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento Europeo, che dice bisogna garantire un governo europeo dell'economia. Non facciamo confusione tra Unione Europea ed Euro. L'Unione Europea è una cosa, l'Euro è una moneta che ci siamo dati in alcuni paesi dell'Unione Europea, non tutta l'Unione Europea. L'euro sicuramente mostra delle difficoltà e ci crea dei problemi. La soluzione non è la cancellazione o il fallimento dell'euro, ma garantire accanto alla moneta un governo europeo dell'economia. Non si può avere una moneta senza avere un governo europeo dell'economia e delle politiche fiscali, una banca centrale europea prestatrice di ultima istanza, gli eurobond, il tesoro europeo. Questo per me bisogna fare. Però gli eurobond i tedeschi non ce li passeranno mai, eh? Ma non è vero, la politica, l'ha detto lei prima, la politica è battaglia. Non esiste una cosa che si conquista stando seduti e grattandosi la pancia. La politica è conquista, ma lei pensava di poter avere 60 anni fa quello che abbiamo oggi? Sono state conquiste, sia pure parziali, ma sono state conquiste dovute al fatto che c'è stato un movimento di popolo e di politica che ha centrato degli obiettivi, sia pure parziali. Allora dobbiamo batterci, la Costituzione europea che non c'è è un danno per noi, abbiamo dovuto fare un trattato che sicuramente è meno buono di quello che era la Costituzione europea. Avessimo oggi una Costituzione europea avremmo fatto un passo in avanti verso l'unione politica. Perché a Cipro si è fatta quella schifezza a cui faceva riferimento il professor Borghi? Perché manca l'unione bancaria. Allora la soluzione non è dire usciamo, facciamola, è la soluzione. E questo era Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo. Una notizia infine dalla Sicilia, via Bruxelles, per fare chiarezza sui rischi possibili alla salute del MUOS, il radar della Marina Militare Americana in costruzione a Niscemi, è necessario l'intervento dell'Europa. A chiederlo è l'eurodeputata del PD Rita Borsellino in una interrogazione presentata all'esecutivo comunitario. La realizzazione del MUOS è al centro di numerose proteste a causa delle possibili conseguenze negative sulla salute dei cittadini. Con questo abbiamo concluso. GR Europa torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.